Dia. Questo remix, baby. GRC, Hot Stress Crew, zio. Qui, qua, tutto quanto storto. Perché un mondo al contrario. Qui, qua, tutto quanto storto. Perché un mondo al contrario. Perché un mondo al contrario. Non va, sto mondo gira male, si sa. La gente vive come bestie da città. Si cerca nuova carica per voltare pagina. Non bastano parole per cancellare lacrima. Nah, tutti bravi a proclamar sentenza. Per la guerra, per i morti, ogni tipo di credenza. Per le bombe, chi soccombe, per chi fa la differenza. Ma sappi che fa più morti la tua indifferenza. Per ogni bocca c'è un vaso che trabocca. Per ogni privilegio c'è qualcuno che lotta. Perché ascolta i miei problemi ancora un'altra volta. C'è un altro che si gira a dire poco che mi snoba. La luce la vedo. Sì, solo in lontananza, ma basta poco per ritrovare la speranza. Ho solo le mie rime finché calerà il sipario. Abitante errante di un mondo al contrario. Qui, qua, tutto quanto storto, grido, ma il mondo resta sordo. Vivo, passo dopo passo in questa situazione schivo, odio e frustrazione. Qui, qua, tutto quanto storto, grido, ma il mondo resta sordo. Vivo, passo dopo passo in questa situazione schivo, odio e frustrazione. Non mi basta l'oracolo per saper la fine. Non mi basta colmare l'odio con le mie rime. Non mi basta tenere tutto a distanza con la rabbia che giorno per giorno persiste ed avanza. Non mi basta, resto ancora attonito vedendo come la violenza esce da quel monito. Tenendo gli occhi al cielo fisso, pensante a che succede se cedo, se resisto. È una maschera, come se fossi scena. Scena la gente si dimena per il magno e poi chi se ne frega nega la mano a chiunque gliela chieda, veda di cambiare. Mentre qui si spera nella pace veritiera come Gandhi. Visti istanti tra rimpianti a causa di ogni avversario. Mentre vago solitario, diretto sul mio binario. Abitante errante di un mondo al contrario. Tutto quanto storto, grido, ma il mondo resta sordo. Vivo, passo dopo passo in questa situazione schivo, odio e frustrazione. Qui, qua, tutto quanto storto, grido, ma il mondo resta sordo. Vivo, passo dopo passo in questa situazione schivo, odio e frustrazione. Si allarga il divario, gente d'animo spento. Gira un mondo al contrario, perché vado contro vento. Contro tempo, contro chi è real TV, ma quando accendo la TDP ci sono tragedie al TG, si delira, non si può scordare quel che è stato. Ma non serve una piastrina, lo ricordi il sangue versato. C'è che le mossi per sfamare una realtà, ma la realtà è in verità. Chi con i soldi che affamerebbe civiltà. Con la storia fai di memoria per non ripeterle, ma ci sono ancora guerre. Sordo, vivo, passo dopo passo in questa situazione schivo, odio e frustrazione.